Iscritti, no, TikTok. Ah, Tricatroc. Chiama di positivo frate, tutto rosio positivo capa capa. Siamo di propagazione che c'è, ragazzi. Ma non cazzo, vabbè, sono squarci. Io non capisco niente, mi sono su 15 centimetri, sono Fabian in americano. Adesso 9 più 20 arrivo. A riposo, viaggio, non è di affare. Che fa di positivo? Chiara Rocci. Ma sta ancora a capo sta facendo? Vabbè, è toccato a questa mani, che cosa? Se esci fuori è un po' di cancareggia, Ci vorrebbe un golfino leggero leggero. Però io penso che... Chi fa panettiere, pizzaiolo come te, l'inferno è l'ideale. Eh beh, un po' respiri, dai. Cazzo un po', beh, anche se alla fine c'è sempre caldo, è sempre caldo comunque. Eh sì. Ma ci senti bene, sapi, alla grande, di lusso. Bella, bello, bello. Quel microfono cos'era il problema, non mi ricordo cos'era? Ma sto scendo bene, forte la modulazione. Levi più 5, microfono di tavola, cazzo. No, sapi, sì, sto scendo benissimo. Cos'era il problema, il gavettino, quello della batteria, giusto? Ah, ehi, quel cavo di alimentazione. Avevi cambiato quello che ti ho dato io, sì. Come? Ce l'avevi cambiato quello che ti ho dato io. Cazzo. E poi ce l'avevo so per una scatola di accendere non altri, ma non sapevo di averceli. Ehi, vabbè, non c'è problema. Io già li recupero sempre. Già li recupero, capito? Vabbè, trovo più tardi magari. Adesso avessi me Natalino, quel po' come, Natalino ci sei. Dai, un po' la modulazione rimbombante, ma lo sa quella radio, l'ecco c'ha. No, però un po'. No, microfono normale sempre, ma l'MD più 4, sapete? Parlo, chiedo. Anche tu, forte chiasso qua, forte chiasso. Questo lo attacchi qualsiasi baracchino e va bene. Capito? Va benissimo, non bene. Quindi ieri cazzo vado a accendere il computer, un regolo è falato. L'ho appena controllato la scheda, ci sono praticamente... c'è un integrato mezzo sciolto. Ma che cazzo ha fatto a bruciarsi, non ho capito. Vabbè, va via di 10 anni, penso 12, 13. 7, allora 7, 7... ma forse una quindicina d'anni. Gaffa già, guarda se è cambiato qualche cosa adesso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, macinino. Prova. 1, 2, 3, sto parlando di modulazione. Modulazione in radio. Poi un po' si è calata, la verità, qua ha calato la modulazione. Ah, c'è un microfono originale, quello dell'apparato. Marchiato President. Ehi, sto mandando un messaggio, il local manager di Guglione. Mi carità. Sì, va benissimo. Anche questo qua. Ma niente, questo la prova già bene. No, se lo voglio messo i microfoni normali, vediamo. Cioè, questo qua che c'ho qua. Boh, che cazzo di un bus, forse. No, dice no. Quando vai a baracchino. Cazzo, microfono, se no che voglio messo, ne ho due normali. Non compriamo il computer che ho io, Luca, lo vuoi? No, ne ho visto uno, adesso lo vediamo. Faccio un regalo per Natale, 700 euro, ma con un processore di 7 però, A me siamo un PC come potente, sapi? Il mio non è che era potente, però... alla fine già andava. A me serve un i7 di processore con l'SSD da 500 giga. Ma sai come fa? Comunque è una bellezza. Se qualcuno ce lo vuole, quello mio, quanto si può vedere, 80 euro, una cazzo di gioco. Ma quello che avevo sistemato io? Ehi. Ehi, già lo vendo, tanti anni, io 100 euro lo vendo. Ehi, se per lì è fermo, parcheggiato, mica ne usi il computer. Se senti qualcuno che lo vuole, è stato sempre dentro la custodia, io non idrato con più. Già me lo chiedono. Salve, fa una cosa, mandami le foto. Mandami le foto. Sai chi lo voleva? Non so se lo conosce Luciano, quello... sì, come no, sono messo quel microfono in borca a trombola. Quello che sta lì a Pasquale, Luciano, già sei a rotelle. Sta cercando un computer. Alla gamba, e guarda, ci senti qualche cosa. Ma te le mando le foto, adesso vabbè stiamo uscendo per le commissioni. Come riesco ti mando due foto su... è la batteria che ce l'ho sempre conservata dentro il calzetto, non lo so se funziona o meno. aprirmi la mattina, non si riesce a aprirla senza romperla. C'ha quegli accumulatori, quelli, capito? Se mandi a tre dentro. La rompi, capito? Si rompe. Oh, oh, questa qua è normale, sai, guarda un po'. Gaffa, quello là c'è normale. Questo qua è quello che avevano mandato, no? Quello mi ha mandato il padrone e si è rotto, si è rotto la capsula. Si dà lui dall'indomani e si è rotto. E vabbè, questo qua lo tengo magari, non si sa mai che finisco la batteria di questo maybe più 5, ma più 4, mi uso questo. E capo, andrà bene, andrà bene. Se devo trovare anche il tempo a controllarmi quelle... quelle... me l'avevano mandato, che me mille, HP, accordatore automatico, c'è anche l'accordatore corporato. Ah, io però me l'hai fatto vedere, ma se l'hai evidente, ho fatto vedere, questo me lo ricordo. Perché non va, sapete, cosa c'ha? No, è arrivato, c'ha l'odore di bruciato, dretto, capito? Devo guardare se si può riparare, meno male che non gli ho pagato l'anticipo. Sono quello qui di la fianca, sai, io, cioè, e devo occupare che mi devi dare una cosa, come ti ho comanda, ma che mi devi dare una modesta, non ci vuole preso. E ultimamente stanno venendo una modesta, io sono una cosa, se io prendo una cosa, se non è messa bene, non le do, sapete, non le do, ma l'antenna che ti ho dato io stai usando sempre, sì. Come? L'antenna che ti ho dato io stai usando sempre. Sì, la bumera anche ciò. Ma stavo dicendo, e lui mi ha detto, dopo siamo sentiti al telefono, mi ha detto, oh strano, vabbè io non so qui tempo che ce l'avevo conservato, ha detto comunque vedi se riesci a aggiustarlo, poi ci mettiamo d'accordo, stanno mai. Cioè uno, se tu sai che stai avendo un articolo che è perfetto, tu mi dici, tu me lo paghi adesso, mi mandi i soldi, poi quando ti arriva ce l'hai. Non è che mi ha detto provatelo prima, capito? Questo lo sapeva già che c'era qualcosa che non andava. E secondo te? Va, carabinieri burro. Tu è stato burro carabinieri, futene una là, allo prossimo. Sabe, ma se non anda, non è che ti paga una cosa che non anda, se ti fa un cazzo proprio. Cioè, zero sotto la terra, capito? Napolitano, visto, capito? Radiamatore, fa servizio a Porto Cervo. Ho capito. Vabbè, già, siamo sicuri di in bocca, Cazzo, sabe. Già lo sai, sui cumpareggi. Quanto è visto che mi ha venduto il 2009, non è poco, non c'era un graffio. Un graffio con nulla, non ci vedevano. Sono una radio graffiata, no, una perfetta, che torna la rivista, faceva dei coperti, tutti graffiati sono. Se dalle foto sicuramente lui è riuscito a non farmi vedere, i graffi. Solo che gliel'avrei pagata a quel prezzo, gli avrei dato molto di meno. Comunque l'ho sistemato, mi sono fatto dare dei coperchi da Gianni perché lui ne ha comprato una rotta, coperchi, mascherina, qualche manopola, tipo la manopola di Canaria un po' scheggiata, cioè non scheggiata, stava saltando la vernice. Adesso la parecchia è nuovo. Adesso sì, che se devi fare quanto me l'ha venduto lui, no quando me l'ha dato lui, cazzo che è tutto graffiato. Gappa. Questo baracchino c'è questo che ho preso io all'asta, questo ho fatto un affare perché comunque funziona bene come radio. Però il discorso la struttura che questo è fabbricato in Francia e invece il mio, l'altro presidente che ho in Giappone, e quindi dentro cambia qualche cosa, tipo comunque anche l'attacco del microfono. Quello è a quattro punte, invece questo ne ha sì. Capito, perché sennò sarebbe stato molto più facile trasferire tutto dentro, quello che ho nel presidente vecchio metterlo qui dentro. Invece così no, è più complicato. Abbiamo contattato a Roberto Rapido, ma poi non ci avevamo mai messo d'accordo. Ha detto con 50 euro mi faceva tutto. Si trasferiva tutte le modifiche, 50 euro si può anche fare. Tanto il venduto lì, peccato l'apparecchio, vabbè. Cattivo, quando gli ho venduto il iPhone, non si è fatto più sentire Mauro, l'ha comparato, boh. Se l'ha messo a parte. Comunque gli avevo fatto provare, lo tocco, proprio quello posso dare 150, no, quindi voglio il zento. Per giù paga 215 euro l'apparecchio, spedito. Non so se usate 250 euro. Allora è così. Poi tanto a contare che mangia chi punto sporco, ma sporco, c'era. Ma non ti dico. Ma io passo una volta che uscivo a marron. Sai che c'è una ricottina, cosa ne so, sotto quello pulito, era perfetto. Era. Poi la verità c'era, non so cosa era successo, e si era andata a farsi benedire, e poi è andata a Fabrizio, l'aveva sistemato lui. È stato molto, molto bravo Fabrizio, molto, perché metterci le mani lì, quanti cazzo fai? È stato veramente bravo. E a chi l'hai venduto? Auguroso. Mauro, quello lavora alla Mondesa. Non lo so che stai dicendo. Mauro, vabbè, adesso da un po' non è. Cara gara, va bene, va bene, va bene. Vedi, questo giocattolino di V 130 si è fatto l'affare quello lì. Come l'ha spedito quel tipo, e c'aveva ragione. Funziona bene, non c'è un graffio, non conosco. E dai, c'ha gli anni e boh, ma come estetica non c'è un graffio. E poi funziona anche bene, molto bene. No vabbè, il terminello va bene, va bene, bello nuovo sto qua, perfetto. Poi c'ho il iPhone, che Antonio diciamo mi ha detto che sicuramente, anzi senta sicuramente, è il mi sono lamentato, che è il trimmerino da cambiare, perché lo smitter non sale bene, in trasmissione, no, però tutto imballato qua, cazzo no. Che si tenga a fare in chimica, mi hai dato lungo in moto, si è ballato bene, coperto bene, non so se vanno bene i coperchi del 3009, mi sa di sì, però sono graffiati, quindi dovrei iniziare a fare qualcosa. Via, dammi un secondo, Lu, fai un attimo, tanto lo faccio scaldare qualcosa, così dopo mi dai, mi dice sta andando, se c'è differenza di segnale. E tanto io non mi attacco il 3009, il Typhoon, là. Modulati arrivo tempo fino alla 90, cambio. Vabbè, no, lei vabbè, se sape, la radio c'è sempre bella. No, ma se cazzo la piazza sul microfono oggi compreso. Ma il suo baracchino. Cappa del Rosmo, però là qua sono tutti pronti. Adesso andiamo, passiamo alle Rospini, giù a Pedagnetta. Dopo però un paio di cose. Sì, via, va bene, dai, mi controllo questo baracchino, sape. Vediamo un po' cosa ti ha preso. Io sono a casa stasera, sei in terra, io sono a casa, dai. Cappa, come non sei uscito oggi? Non sei dalla tua 25? Ma oggi non sono a casa, sto aspettando un amico, mi deve portare un telefono a riparare. A barreggere, dai, a più tardi. Stavo a salire anche la pomponi a ritirarmi, c'è un portatile. Se avessi avuto la base magnetica piccolina mi avrei messo il barattino in macchina. Ah, portatile, ho capito, io. C'è un portatile, ma ci sei malato, Antonello. L'ho lasciato a lui, metto l'altra volta, l'ha chiamato, ho detto, passa a ritirare a prenderselo. Mi ha messo l'attacco esterno per mettere l'antenna esterna, capito? È un barattino vintage, portatile, capito? E mi ha messo l'attacco per attaccare l'antenna esterna. Io ce l'ho la base magnetica, ma l'antenna la magnum non va. Oh, vabbè, la posso provare, magari non riusciamo a accordarla qua in casa e magari in macchina riesco a farle scendere le stazionarie, capito? Magari già ci riesci così, prova. Perché comunque accendo sopra la capota della macchina non è come metterla sopra il terrazzino. Quelle sono andate per metterle in macchina, capito? Magari in macchina riesco a tararla. Così ma potevi mettere un attacco, tra ti fa due modulati e poi me la stacchi, c'è base magnetica. Infatti, io sono qua, sono quando rientri, se vai a casa, adesso qui oggi, adesso mi porto sto cazzo di AMC, cos'è la modulazione? Sì, AMC e ALC. Sì, ma se non è stato toccato devi uscire, capito? Guarda che non siamo anche fido nel microfono invece, che ti faccio l'importante, boh. Capito, dai, ci sentiamo più tardi, ciao Locaria, lo proseguo. No, ho attaccato il mio più 4, sai, va bene, sentiamo dopo, ciao. Ah, l'hai provato col microfono tuo, no, allora il baracchino per forza, freia. Va bene, dai, a dopo. Io sono un messaggio di Antonio Riserva, c'è qualcuno? Beh, Gianni. Ehi, ciao Carlo, come va? Casalingo, e tu? Io sempre al solito. Ora nuda? No. Vabbè, porta pazienza. Ma la pazienza c'ha un limite, non è solo pazienza, sono i dolori. È quello il problema. Sto modulando con un microfono normale, come sta uscendo? La voce è la tua, mi sembra leggermente un po' nasina. Prova a fare un passaggio più lungo già. Ecco, Riccardo sono, forse è per quello, dai, guarda a vedere. No, in effetti se sei sdraiato allora può essere quello. No, la voce già è bella, radio pulita, capito? Il segnale è sempre il solito da me. Cappa, vabbè, sto uscendo con 3 watt, dai, l'apparato omologato. Non si sente più nessuno qua, boh. E quando è? Ieri sera, un attimo acceso, ma avevo le mani sporche perché ero in cucina cucinando, volevo rispondere, ho sentito Natalino che dice che stava facendo qualche disturbo e quindi ha spento, poi volevo entrare, invece tra una cosa e l'altra non ce l'ho fatta, avete chiuso e quindi, ma ogni tanto qualcuno si sente, dai. Natalino adesso non può più entrare, sì che risolve il problema, se quando prende la patente ha detto che entra e chi le dice cosa non gliene frega più nulla. Strano perché insomma ha cambiato tutto, ha fatto l'impianto nuovo e dice che non stava più creando problemi e io lo stesso, io TVI non ne faccio, ripeto, niente TVI, su qualche cassa magari può entrare, però adesso anche io sto limitando i watt, sto uscendo con 4 watt e mezzo, adesso la abbasso anche un pochettino, 4 watt adesso. Buonasera, ecco qua, buonasera. perché è modificato, quindi usciva un bel forte. Buonasera, buonasera. Ciao. Ciao, come ti chiami? Buonasera. Ciao, come ti chiami? Giorgio. Ciao Giorgio, e l'altro come si chiama? Ludovico. Ciao Ludovico. Avanti, ma come? Ciao Gio. E allora? Cava gaba. Stavo dicendo proprio, non lo stai fatto per quasi più nessuno. Stasera accendo, gara, le 6, se prima c'era sempre gente, adesso non vedo nessuno. Già, mi sono sistemato un telefono, l'ho già sistemato. Samsung Galaxy A40 non caricava. Avanti Carlo, buonasera. Ciao, poi faccio una prova. Se mi date 10 minuti attacco il iPhone l'altro. Perché era da un bel fermo e stava andando male. Usciva tutto a tratti, usciva. Adesso come l'ho attaccato, come ha surriscaldato bene bene, si è ripreso. Riprendi Carlo. Due giorni, buonasera, che non ti sentivo più. Ho visto tutto su Facebook, Luca. Io so già tutto. Devi far caricare i condensatori, lasciarlo un po' attaccato, di modo che ricarichi i condensatori, come raffermo sicuramente sono scaricato. Sicuramente sei avanti, Carlo. Ho detto Luca che ero da tanto tempo che non ti sentivo. Ogni tanto già mi faccio sentire, oggi sono a casa da mamma, dai. Che avevo cose da fare. E niente, sono qua. Domani sono giù, poi forse mercoledì sono qua. Insomma, mi alterno un po' qua, un po' là, dai. Ma no, mi faccio due chiacchiere, visto che giù non ho più niente, entro da qua. Avanti, riprendi. Ho capito, niente, io adesso ho sentito Gianni chiamando. Prima lo stesso acceso, non c'era nessuno, quindi me ne sono andato un po' su altri canali, stavo facendo ascolto. Adesso sono tornato sul 10, ho visto la chiamata di Gianni e ho risposto. Tutto lì a fare le solite quattro chiacchiere quando c'è qualcuno. Ma che la stai ascoltando? Luca, come lo ascolti questa microfonia? Come mi ascolti di radio? Che ho messo un microfono normale. Bene, già, bene. E allora lo lascio là. Perché il coso, il Turner sta facendo i capricci. Sicuramente sono le lamelle che non toccano bene e a volte non esce. No, a posto già, perfetto. Avanti da Giubu sono abbassi, quando ne ho voglia lo controllo, dai. Avanti Carlo. Mi stavo dicendo a Luca, io lo stesso sono entrato prima sul 10 ma non c'era nessuno, quindi stavo girando sul canale internazionale, ma non so voi, ma io ho un sacco di QRM, com'è da voi? No, da me non ce n'è molto, Santiago 3. Adesso in effetti è sceso un pochettino, però prima avevo segnali alti, 7, 8. E magari sono segnali di propagazione, dai. Può essere, addirittura da canali diciamo attigui, no? Si sentiva, capito, slaterare. Capito. E c'era altra gente negli altri canali. Sì, ma erano americani che stavano modulando. Ah ecco, vabbè. Io ogni giorno li sento, americani, francesi. Non ho più voglia di fare di ex, non mi entusiasma più, perché prima ci mandavamo le QSL. Adesso io mandavo quelle di sughero, cose mi mandavano dalla Svizzera, addirittura anche da Spagna, Francia, Belgio, mi mandavano le cartoline, capito? Esatto, anche io dovrei avere qualcosa conservato, anche io ne avevo un bel pacchetto, capito? Però ogni tanto entro così giusto per la soddisfazione di fare proprio due passaggi, capito? Da dove chiami, che apparecchio stai usando, capito, un po' in inglese, così cerco di aggiustarmi, io non è che sono molto bravo, però così ogni tanto lo faccio. Ho parlato con la Russia, con la Finlandia, capito? Nel nord Europa ci arrivo tranquillamente, qualche giorno fa con l'Olanda, capito? Poi in Italia, a volte quando c'è propagazione, sempre zone Lago Maggiore, quelle zone là. Io il posto più lontano dalla macchina che ho fatto è a Londra, dal quadrato. Ho parlato con Londra, con un lineare da 30 watt. Immaginati. Immagino quando c'è propagazione, anche se sei in macchina, se hai diciamo più di 10 watt dovresti riuscire a parlare. Io lo stesso, settimana scorsa ho acceso un attimino e ho parlato con questo George di Belfast in Irlanda del Nord, ma lo sentivo Santiago 9 qua e con la propagazione paurosa. Allora quel lineare lì da 30 watt lo so, manco se lo faccia più la ZG, l'aveva messo Tonino, aveva fatto Kawasaki, aveva fatto una lotteria per i CB e praticamente chi voleva partecipare pagava un tanto, se non mi ricordo era una fesseria comunque, e io avevo vinto il secondo premio ed era quel lineare tu, il primo premio era un lineare più grosso e quello lì era il secondo premio e l'ho vinto io e quindi me l'avevo piazzato in macchina. Perché diciamo non ti spompa più di tanto la batteria, un 30 watt per la macchina può anche andare bene, capito? Ma infatti, ma non lo so se la ZG lo faccia ancora quello lì, minimo 100 watt mi pare che faccia. E prima li facevano, facevano i distorsori, io c'avevo anche il distorsore con le luci che si accendevano quando parlavi, se andava male la modulazione si accendeva LED rosso, se no era giallo e verde, quando era come potente era verde, e se no si accendeva il rosso e praticamente ti accorgevi che non stavi scendendo bene. Ho capito, adesso non ne trovi più di quelli da 30 watt, il minimo che trovi sono 80. 100 watt. Sì, ma è facile. Lucrezia. Mi ha trovato quasi finito già. Cappa, montalo, montalo. Dunque se lo trovo io uno così da 30 watt me lo metto in macchina. Sì, ma che 100 va bene, io l'ho avuto da 100, andava benissimo. Qua sto usando quando lo attacco il 747, capito? Però diciamo l'ho sistemato tutto bene e stare a smontarlo, metterlo in macchina, poi magari dici mi serviva forse più su eccetera, allora se lo trovo un altro anche inferiore a questo, anche un 30 watt per la macchina va bene. Ma tanto tu fai disturbi, dai, le case, se ci metti il lineare ancora meglio, te lo metti fisso in macchina e buonanotte, lo lasci, io ce l'avevo, non si vedeva nemmeno il mio era dove ci sono i portaoggetti, ho aperto i portaoggetti, ho messo un interruttore con un LED, quando il lineare era sempre acceso, lo spegnevo dall'interruttore. Quando volevo accendere il lineare accendevo l'interruttore, era piccolo piccolo l'interruttore, di quelli piccoli piccoli, ma così vedevo. Se accendevo la luce rossa io sapevo che c'era il lineare inserito. Esatto, anch'io se lo metto in macchina mi organizzo così, cioè apro lo sportellino, schiacci, accendi e quando vuoi lo spegni. A me era carino, c'era il tastino, l'interruttore piccolino piccolino, era bellino, dai. E poi era in un punto dove praticamente anche nascosto, dai, non si vedeva più di tanto, se era spento non si vedeva. Ormai nelle macchine già c'è più spazio, quindi puoi trovare sicuramente una sistemazione ottimale, dai, per non essere troppo in vista. Io lo stesso ascoltando qua e là, c'ho anche il V acceso su 525 ascoltando gli altri che chiacchierano. No, io non ce la faccio, quando sto ascoltando una cosa non posso ascoltare l'altra, ce l'ho anche io il ricevitore, ma se ascolto loro non ascolto qua, non capisco nulla se no. Ma infatti io poi ho visto che c'era qua qualcuno, allora ho abbassato, capito, quindi ce l'ho in sottofondo, quindi non mi disturba. Appaga. Che ricevitore c'è? No, il mio non è un ricevitore, è un portatile, capito? Ah, ho capito. Già ricevo tranquillamente qua. Sì, vabbè. Anche a casa si riceve tutto benissimo, anche con l'antenna era 27, riceve per 40 metri, Santiago 920, 930, 40 metri, se li ascoltavo benissimo. Non l'ho mai provato con quell'antenna lì, ma non lo so se riceve meglio o peggio, togliendo il gommino e collegandolo, capito, alla 27. La mia riceveva molto meglio, manca paragone. Il segnale era fisso, non era frusciato, a volte col gommino ti fruscia il segnale, invece quando tu rimetti l'antenna, vabbè, io ti parlo di quando avevo la Mantova, non lo so se con questa lo faccio, però quando avevo la Mantova io 40 metri facevo ascolto e sentivo bene. Lo devo provare, dai, mi hai dato un'idea. Adesso la prossima settimana riprendono quei lavori, perché un po' avevano iniziato, un po' hanno sospeso, per cui avevo staccato, poi ho detto questi non si vedono più, ho staccato di nuovo tutto, però nel frattempo mi ha fatto già predisposto tutto, ho capito, il corrugato, fissato col cemento. Sì, me l'avevi detto, sì, è fatto bene. Ma a voi il 110 vi danno oppure, perché dice che la cifra ha diminuito adesso, che danno meno? Nuovo è 100, ho capito, i nuovi che diciamo saranno utilizzabili, però noi rientriamo nel vecchio 110. E voi avete fatto la domanda quando c'era 110? Sì, esatto, poi il cantiere è stato aperto a luglio, poi va bene, agosto sono andati in ferie, settembre poi hanno ripreso altrove, poi sono venuti qua qualche settimana e se ne sono andati e adesso dovrebbero riprendere l'amministratore definitivamente per finire la settimana prossima. Ma dovrebbero farlo continuativamente questo lavoro, non lasciarlo, mollarlo, poi ritornare, se no lasciano la gente, a parte che con queste impalcature non c'è mai da fidarsi. Quello è che devi stare sempre dentro casa e poi praticamente io dall'altra parte nel terrazzo avevo la parabolica per mettere l'impalcatura, me l'hanno attaccata, per cui non ricevo più Sky, quindi mi vedevo insomma programmi eccetera e li devo vedere col cellulare, capito, perché c'ho Sky Go, quindi poi mi passo il cellulare con lo Smart View che c'ho sul televisore, me li vedo così se li voglio vedere sul grande schermo, perché ho staccato la parabola e quindi sono senza adesso, e loro non finiscono lì e non tolgono tutto, non posso rimettere la parabolica. Niente, vicino a casa hanno aperto due appartamenti, non per allarmarti, però sono entrati, sono saliti dalle impalcature e hanno aperto due appartamenti, hanno approfittato di quando non c'era la gente, e sai come fanno, no? E poi hanno svuotato le case. Quindi è quello il problema, che bisogna stare sempre uno in casa perché non si sa mai. Io già non ce l'ho quel problema perché adesso c'è mio figlio e quindi quando io sono a lavoro, se mia moglie è a lavoro, già c'è mio figlio a casa, già è grande e quindi ci fa lui da guardiano. Però io già c'ho il cane. C'è il cagnolone, capito, e niente, non ci sono problemi. Ma l'importante è che finiscano, capito? Io spero che adesso inizino per non finire più e quando insomma se ne vanno via si portino via tutto, impalcatura e quanto c'è. Ascolta, le finestre per gli uffici ve le hanno cambiate. Oh, viste? Se sto uscendo? Tutta frusci. Adesso no, sto uscendo, sì. Sì, adesso sì. Va bene la radio? Di lusso, ma perché non lo stai più usando quello? Già, se io uso il 3009 non posso usare questo, no, cioè questa è l'attacco di sotto, dove la prima, faccio un capricchio da alimentazione, ogni tanto male, comodo. Allora, lo devo riparare, perché non sale lo smitter bene, capito? Ma come l'accendi, no? E come l'accendi, boh, sulla macchina sono fatto acqua. Che cosa c'ha lo smitter? Come la trasmissione non sale bene, capito? C'ha la polvere. Già ne so, non lo so. E io perché il tunnel non l'ho messo, non ho lasciato che funzionava, adesso vado a usarlo e non esce più di radio. Devono essere le lamelle che sono da piegare, ma bisogna saperlo fare. Non lo so, non lo so. Quanto siamo scioccati così, mi faccia vedere, aspetta. Qui si sente bene, sì. Un fischio si sente, ma c'è altre radio accese. Ehi già. Quindi lo smitter sale a 3, 4, vado a modulare a 7, io volevo che salga a 9. Perché se facciamo le prove mi devi dare tutto quanto libero, se tu mi lasci la parete attaccata fischia, ti dico che fischia. Cappa no, adesso già sta andando bene, dai. Avanti, caro. Si sente bene Luca, sì. Già, da noi devono fare il tetto, mettere i pannelli per il fotovoltaico, cambiare l'ascensore, devono metterci le finestre, cambiare le porte e finestre dei terrazzini e giù devono modificare un po' l'androne perché l'ascensore è nuovo, praticamente devono allargare la porta, lo spazio c'è, però c'è la rampa delle scale, quindi devono modificare un po' la rampa delle scale, capito? Girano i gradini e qualcosa del genere, perché ci deve essere lo spazio per entrare una barella, eccetera, e ci deve essere dalla porta 1,40 m, giù non ce l'abbiamo, abbiamo 1,10 m, perché ci sono i gradini, però togliendo 2 gradini, oppure dice giriamo la rampa, capito, che lo spazio ce l'avete, e tanto rientra tutto in quella cifra là, però lavoro ne hanno ancora da fare, capito, praticamente hanno messo l'impalcatura, hanno messo qualche stecca, eccetera, hanno iniziato una parete col cappotto e poi se ne sono andati. E allora, sono all'inizio, là. Vabbè, là. Se mettono anche le finestre già va bene. Cosa sono, in alluminio sono? Non so se mettono in alluminio oppure mettono PVC, non ho la più pallida idea, non me lo ricordo. E ci devono pure cambiare i portoncini, capito? Mettono quelli blindati a tutti quanti, a meno io ce l'ho nuovo, l'avevo messo 2 anni fa, il portone è nuovo, perché a casa mi avevo fatto tutto il pavimento nuovo, per cui il muratore quando me l'ha fatto mi ha detto c'è questo portoncino che è tutto svirgolato in legno, eccetera, perché il pavimento era stato toccato, quindi avevano spostato, eccetera. Allora quando ho visto così ho detto ascolta, ma se mi metto un portone blindato, me l'avevo fatto fare bello su misura, uguale agli altri che ci sono, capito? Per cui ho detto ma io volendo posso lasciarlo, tanto se gli altri li cambiano lo faranno tutti uguale a questo, come io l'ho fatto uguale a quelli che c'erano, invece no, dice gli altri, dice che cambiano il pannello esterno, capito? Però mettono un pannello liscio, capito? E la gente già stava protestando perché non voleva il pannello liscio. Allora io ho detto voi prendetelo liscio il pannello, poi tutto al più, tutti insieme ce lo cambiamo e prendiamo quelli serigrafati, si chiamano così, che non è che sono fatti dal falegname, ma li vendono così, si piazza solo il pannello esterno e buonanotte, così ce li abbiamo uguali tutti, capito? Un punto d'accordo bisogna trovare in un condominio, se no guai. Luca, e da voi è finito, hanno Luca. Aspetta un attimo, già ritorno subito. Certo di Avruscio, sono fischiato. Sicuramente Luca ha le altre radio accese, per quello i fischi, però se no, se li spegne già si sente bene. Appunto, sicuramente c'è qualche altra radio accesa. Infatti, io così stavo dando una mano a mio figlio perché si è comprato un computer nuovo, quello che ha, si è rotta la scheda delle wifi e praticamente perde la connessione. Gliel'avevo fatto mettere a posto, ma subito dopo, capito, deve avere qualche problema. Allora c'era la possibilità, l'altro giorno hanno aperto, come si chiama, Unieuro, dove c'era Ocean prima, adesso c'è Conad e a fianco lì hanno aperto, non Unieuro, come si chiama, Euronics, e c'era un computer che costava 999, quasi 1000 euro a metà prezzo, c'erano gli sconti al 50, allora ne ho approfittato e gliel'ho preso. Hai fatto bene, è una buona confortabile. Un HP, diciamo, quelli che hanno un tetrabyte di SSD di memoria, c'ha la RAM da 8, da 8 giga, come processore c'ha quello Intel i7, quindi abbastanza veloce, e la scheda video, ho visto già, è separata, è buona, insomma dovrebbe essere, c'ha l'impronta digitale, insomma è da da 15,6 lo schermo leggero, hanno eliminato il lettore CD, DVD, diciamo, che nei vecchi computer invece c'era ancora, adesso ormai quelli nuovi non ce l'hanno più. Se proprio devi caricare dati da un CD o DVD devi utilizzare una, diciamo, un masterizzatore esterno, ormai funziona così, però sono molto più leggeri e compatti, capito? Sì, sarà andato migliorando sempre, la tecnologia migliora sempre. Ma io sono rimasto, c'ho un portatilino, anzi ne ho due, uno grande e uno piccolo, però lo sto usando poco, uso più il telefonino per fare le cose che il PC. Io il PC lo uso una volta al mese perché mi metto a fare il simuscan che vedo le immagini più grandi, capito? Solo per quello, poi per il resto anch'io faccio tutto col cellulare, dagli ordini a controllarmi le cose su internet, ormai col cellulare faccio tutto anch'io. Ma infatti, simuscan dovrebbe essere qualche cosa di lavoro, vero? Per addestramento di lavoro. Sì, dobbiamo fare un'ora al mese, capito? Sono delle immagini che dobbiamo visionare e devi individuare dove sono gli oggetti pericolosi, capito? È praticamente un report che poi il nostro direttore tecnico invia all'ENAC a dire questo è a posto, questo è a posto, questo è a posto, capito? Perché noi ogni 4 anni poi abbiamo la ricertificazione, che consiste in un esame lo stesso per individuare oggetti pericolosi, però lo facciamo con la commissione ENAC sempre. Ho capito. Quello che mi manca è l'arma, vero lì? Per alcuni servizi ce l'abbiamo quando facciamo i servizi esterni, i servizi interni no, non è possibile perché il prefetto non autorizza le armi all'interno dove c'è moltitudine di persone, in quanto c'è la polizia alle nostre spalle, per cui non c'è nessun bisogno che la usiamo, solo la notte quando facciamo il pattugliamento e la vigilanza. E tu c'hai l'arma, anche tu ce l'hai? Sì, purtroppo sì, ma è una rottura di scatole già, perché devi fare la trimestrale tutte le volte, andare al poligono, insomma una rottura di balle, certificato medico dall'ufficiale sanitario, è una rottura. Lo so, anche le guardie giurate lo stesso devono fare così. Ti rassegno una volta ogni 6 mesi mi pare che si faccia, no? Ogni 3 mesi noi lo facciamo. Vabbè. Così se devi ammazzare a qualcuno, c'è bello allenato. E quello sì, però insomma è una rottura questa roba, io a volte la uso 2 volte in un mese, a volte un mese. Adesso per esempio d'inverno forse qualche giro in più facciamo di servizi esterni, capito? Perché tutto il personale ha tempo, adesso ha finito, siamo rimasti in pochi e per cui ci dobbiamo caricare più notti, capito? Prima facevamo 2 notti in un mese, adesso da quando ha finito il personale, il 30 di ottobre, capito? Siamo dimezzati come squadra di operatori della sicurezza. Cappa, un secondo che sono al telefono. Yeah. Luca, ci sei ancora tu? C'è qualcuno? Sì, Luca, io ci sono. Gianni un attimino sta rispondendo a una chiamata. Ok, come sta andando? Siamo così che si è ripresa adesso. Vediamo un po'. Ok, là. Pensavo che si è ripreso. Ma stai buttando giù tutto, abbassa. Che si abbassa? Tu lo metti a 2 bene fa. Sì, si sente bene, sì. Typhoon scorreggia, Schioppetta di brutto, altro che. Schioppetta, va bene, va bene. Sta giusto, cattiva, era un bel fermo. E adesso mi sa che domani mi cerco le vizie, me lo piazzo lì dove ho, dove faccio i miei lavoretti, ho una base sotto l'attacco. Lo attacco lì e così ogni tanto magari commuto me lo uso. Faccio uno spezzone e me lo uso. Sennò uno sta troppo fermo, non va bene. purtroppo le cose quando le lasci senza usate, magari un po' l'umido condensa eccetera, a volte si rovinano pure, quindi ogni tanto magari usarle, microfoni e quant'altro, no, non guasta. In effetti così, è vero, non bisogna lasciarle da parte. Vabbè, non lo stavo usando perché lo smitter mi stava dando problemi. Però lo smitter non è perché è nuovo, me l'aveva dato Gianni questo qua, da un baracchino che purtroppo si è bruciato, ma lo smitter era nuovo, fiammante. Invece il problema non è un problema di smitter, capito? Adesso sembra che stia andando, speriamo bene, no? Lo lasciamo così. Magari non ha che volate, non lo sto chiudendo, adesso gli metto la staffa e me lo uso un po'. Vabbè, anda beh, Luca. E niente, io lo stesso avevo, Gianni mi aveva dato la sua radio, quella Galaxy Saturn Echo, capito? E non era funzionante, l'aveva portata da un suo amico a Sassari, però non gliel'aveva messa a posto, invece io tramite Claudio e Massimiliano mi avevano dato l'indirizzo di uno di Borore, capito, di Albino, e l'ho portata da lui e me l'aveva riparata, per cui c'ho anche quella adesso da usare. Non so, me l'ha detto Gianni, me l'ha detto, bene, bene, meglio così, almeno, io ho questo qua, del 3009, è il Mobicom, e basta. Cosa mi dimostra? Tanto non me ne faccio niente. Non ne faccio niente, Carlo, tanto alla fine entro poco in radio, non è che entro molto. Tutto qua. Anche io non è che molte volte non ho tempo, un po' tra lavoro, gli impegni di famiglia, ogni tanto riesco a ritagliare qualche piccolo spazio, capito? E non è che più che altro molte volte accendo, ascolto, magari vado su altre frequenze, però in radio molte volte hai la voglia di parlare ma non c'è nessuno, non è sempre che trovi dall'altra parte l'interlocutore, capito? Sulla 27 così, magari in passato era più popolata, capito? E quindi riuscivi a chiacchierare quasi sempre, mattina, sera, pomeriggio, adesso è limitato a questa fascia oraria, mi sa, e basta. Dopo cena lo stesso molte volte accendo ma non c'è nessuno. Io arrivo dalla 25 intorno alle 8 e mezza, sono a casa, accendo non c'è mai nessuno. Non c'è mai nessuno, io stasera l'avete fatto un paio di fischi, poi è andato Salvino, anche lui stava a fischiare, l'ho chiamato, ho fatto un paio di chiacchiere con lui, ho attaccato questo qua, usciva male, ho detto no, non è possibile. Cioè io l'ho spento che andava bene, andava benissimo, vabbè comunque si è ripreso, dai. E questo qua ha i suoi anni, c'ha i suoi anni, tanti. Non credo. Però è una bombetta, dai. Caspittina, si sente, te l'ho detto, ho dovuto abbassare qua. Vabbè, tu mi arrivi sempre forte, sia di segnale ma anche di radio, però con questo è proprio la battaglia, capito? Il Typhoon 2 o il Typhoon normale, Luca? No, questo è, aspetta, no, non è il Typhoon 2 l'ho venduto, questo qua è il Typhoon quello famoso, mi ha dato Roberto Quadrazzo, che prima l'ha dentro in riserva, ci ha fatto un po' di giro sta apparecchio. E niente, sembra che sia a posto lo smitter già, l'ho mettato a fare la di VAT ed è salito a come lo volevo io, dai. Ah, sicuramente non saliva perché non c'era VAT, è quello che sceglie anche il VAT. Sei a posto, sì, è a posto, perfetto. Sta guardando qua, beh, più fame c'è, cioè, se mi stai guardando, c'è cioè, Dea lì, la pappa, gli ha la testa, la pappa, gli ha la pappa, la pappa. No, saluta a Gianni. No. Saluta a Gianni. Cosa vuoi? Saluta a Gianni, dai. Saluta a Gianni. No, saluta a Gianni e a Carlo. Ciao Dea. E io c'ho fame. Io sono stato male, in cortile crescono, è presente quelle, i corbizzoli, e a me mi piace non bene, ne ho mangiato 4 o 5, mi hanno fatto chi da me, ma con questo mal di faccia di sintetia allucinante. Oh già, c'è l'etichetta con questa ragazza. C'ha la bellezza di 19 vibratori, uno diverso dall'altro. L'ha detto proprio chiaro e tondo, eh. E dicevo c'ha un'ottava. Cosa c'ha? 19 ammiratori. Vibratori. Ce l'hai detto tutti tipida. Cavolo, l'ottava è grande. Ha detto che l'uomo non la soddisfa. Usa di tu si di. Si affoga questo. Cazzo. E l'ottava ne ha due gigantesche, ma veramente. Guarda, non ti compare, è più grande della mia testa. Beh, io lo so perché ha avuto una con la quinta ed era già battuto. Ma sono l'ottava. Di cui ti prende a schiaffi ti prende. Sì, fuori di gamba, niente fuori di gamba. Allora, proprio l'ha detto, no? L'uomo non riesce a... Non lo so. Questa... Ne chiede se è meta, ne chiede se è meta, meta. Ma sai, sai, non come dicono dalle mie parti. Come, Carlo? Sai, sai, no. No, ma cui sai, sai, non è basta. Comunque deve essere una bella battaglia con una del genere. Ma... Si assana, che non ti contagi.